Spiace dirlo perché alla fin fine c'è in ballo la pelle di un uomo, ma pochi dibattiti mi sono sembrati così futili come quello sull'opportunità di eseguire o meno la condanna a morte di Saddam Hussein, che tanto è vero è sparito dalla circolazione in pochissimi giorni. O forse più che futili, inutili, visto che i termini del problema sono posti sin dall'inizio con chiarezza inesorabile e dipendono in toto dall'opinione che ciascuno può avere sull'ammissibilità di quel tipo di pena. Una volta d'accordo sulla pena di morte, non importa in base a quali motivazioni, sarebbe difficile sostenere che Saddam non se la sia meritata, né si vedrebbe tutto sommato alcun motivo per non eseguirla. Se no, no. I tentativi di eludere la questione affermando per esempio che quella condanna è giusta e doverosa, ma sarebbe meglio non darle seguito per motivi di opportunità, umanità o altro, non portano da nessuna parte. E possono avere anzi delle conseguenze vagamente surreali, come quella straordinaria dichiarazione di vari ministri europei, tra i quali anche D'Alema, secondo i quali l'impiccagione del tiranno potrebbe spingere l'Iraq nella guerra civile. Come se gli scontri che da tempo insanguinano quel paese fossero qualcosa di diverso, o se il fatto stesso di processare e condannare il leader di una delle due parti non sia un tipico episodio di guerra civile. Ma si tratta comunque di complicazioni inutili, nel senso che certi a principio sono assoluti o non sono, e su certe cose non si discute. Non si deve impiccare Saddam Hussein, come non si deve impiccare nessuno, e basta. Su questo spero siamo tutti d'accordo. Ma non tutti forse ci rendiamo conto di una cosa. Non ci rendiamo conto che no alla pena di morte non significa soltanto no alle condanne a morte e ovviamente alla loro esecuzione. La pena capitale non è un optional che si possa prendere o lasciare a piacere. La sua presenza, di fatto, pervade e condiziona l'intero sistema giuridico, nel senso che inficia e rende al limite inammissibile le legislature che la prevedono e i processi che in base ad essa vengono celebrati. Considerare uno Stato di diritto a tutti gli effetti un paese in cui la si applica significa come minimo sottovalutare il tasso di violenza e di brutalità che comporta per l'intero corpo civile e quindi per la sicurezza dei cittadini. Il caso degli Stati Uniti d'America mi sembra da questo punto di vista esemplare, e poco importa se laggiù la maggioranza dell'opinione pubblica è incrollabilmente affezionata al capestro. È il caso classico del serpente che si morde la coda. Naturalmente tutto questo con Saddam Hussein c'entra solo fino a un certo punto. E la sua condanna sarebbe discutibile anche se si fosse risolta con una multa o con i classici 6 mesi con la condizionale, perché è una condanna pronunciata da un tribunale speciale, insediato ad hoc da una potenza occupante che ne ha dettate le regole e le procedure, per cui solo con uno specialissimo sforzo di ipocrisia lo si può considerare espressione del popolo iracheno e delle sue leggi. E uno Stato iracheno del resto, quando fu creato quel tribunale, non esisteva. Ma si sa che il governo americano non riconosce la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia e certe incombenze preferisce sbrigarsene in proprio. Oltretutto, casi come quello di Saddam sono troppo imbarazzanti per poter essere affrontati in un vero processo pubblico, in cui l'imputato avrebbe fin troppe opportunità di chiamare a correi coloro stessi che vogliono giudicarlo, visto che i suoi rapporti con gli Stati Uniti non sono sempre stati di contrapposizione e i gas sui villaggi curdi li ha fatti lanciare lui, ma qualcun altro glieli aveva forniti. Personaggi simili, in un modo o nell'altro, vanno fatti sparire, ma questo non significa di necessità che lo impiccheranno. Perché persino Bush può essere sensibile a un argomento d'opportunità, specie dopo aver perso le elezioni. Significa che se lo risparmieranno, lo faranno in base a qualche patto scellerato, a qualche forma più o meno perversa di do ut des, a una qualche promessa di silenzio, e di cui conseguentemente noi non avremo mai notizia. Possiamo capire le ragioni di tutto ciò, ma non vediamo perché per parlarne si debbano usare categorie complicate come quelle di giustizia.